State ascoltando Radio Pazza. Ah, ciao a tutti ascoltatori e amici, eccomi tornato sulle note di questa melodia un po' oscura che forse può inquietare qualcuno, ma anche segnalare un grande ritorno. Di cosa parliamo? L'ultimo episodio di Star Wars? No. Il ritorno del figlio prodigo? Quasi, però no. Il ritorno di DJ Gregs in persona. Luke, torna da me, Luke. Unisciti al lato oscuro della forza. Il lato oscuro del... Radio Pazza? Che stavo per dire stiamo... del cosa? È meglio non saperlo, amico mio. Beh, il lato oscuro delle persone molto spesso sta dietro, non è gradevole. Meglio anche non sentirla e non vederla. Comunque, senti, che stiamo facendo qui? Chi siamo? Cosa facciamo? Dove andiamo? Qui invece che Luke Skywalker e il padre Darth Vader, a questo punto credo che siamo più simili a Scemo e più Scemo. Infatti iniziamo subito con una sonorità appropriata. Sì, un po' di musica allegra per iniziare questa puntata di Reunion. Scemo e più Scemo. Appunto. Ma che grazie. Won't you take me to Funky Town? Questa era Funky Town dei Lips Incorporated, incorporata appunto nella colonna sonora del film Scemo e più scemo. Non a caso, ovviamente. A questo punto raccontaci cosa hai fatto tutto questo tempo lontano dai microfoni di Radio Pazza. Beh, guarda, caro amico e collega, la mia storia è molto anche banale per certi versi. Niente, io un giorno sono uscito da casa, ho visto un gruppo di gente che correvano, sai, un po' per curiosità, un po' per simpatia, poi vedi queste cose, no? Un'associazione di persone dice, vabbè, andiamo a vedere che succede. E loro correvano, gli correvo appresso, finché non mi sono reso conto che sti deficienti correvano appresso a un rotolone regina. Solo che è come quando vai a fare il bagno, no? Allora ti metti a nuotare e a un certo punto ti giri indietro, vedi che la costa già si allontana, la corrente è forte, però la boa sta quasi vicino, non dico, però insomma non sai se tornare indietro o tornare avanti. Allora vai avanti e poi insomma che il Signore ci aiuti. Niente, poi quando mi sono stufato, eccomi qua, sono tornato. Maestro del surrealismo sei diventato ormai. Non voglio dire di cosa sono andato, ma dove sei stato? Dici? Ma guarda, il mio pellegrinaggio scusate, è stato molto lungo. Sono passato per l'Himalaya, sono passato per gli Stati Uniti, ho fatto da una giro all'altra, insomma. Sì, praticamente un po' come la nostra puntata, no? Abbiamo iniziato con la città del funky e ho fatto un giro musicale, ecco. Ok, quindi quella che segue? Quella che segue è una delle mie mete preferite, insomma siamo tutti quanti molto amanti della musica reggae, che ci ricorda quanto è bello il mondo e quanto siamo buoni e abbronzati. Sì, e quanto soprattutto sono io. Deliziosi gli effetti di certe sostanze. Questo non si dice, questa è una puntata lucida. E non solo, scusate, è la nostra prima puntata registrata di giorno, appunto, questa grande novità introdotta nella nostra consueta registrazione di Radio Pazza. Beh, consueta neanche tanto, insomma, saranno almeno 2 anni che non possiamo. Sì, ma il nostro concetto di tempo è molto personale, Drugo. È vero, hai ragione, noi con gli orologi squagliati di da lì. Esatto. E il sì, niente. I calendari bruciati. I calendari bruciati, non dico in quale maniera, cominciano dagli angolini strappati. Comunque, continuiamo la nostra programmazione musicale, perché qua insomma non dobbiamo neanche annoiare i nostri amici ascoltatori. E come dicevo, passiamo dalla città del funky alla città del reggae, che sarebbe Kingston Town. È lui, eh? Alborosi. Yeah. Sibling dum dum, it's a rude white zone, it's Kingston Town. Sibling dum dum, sibling dum dum, it's a rude white zone, it's Kingston Town. Some man have no manners, still a try fi beg a thing. If you no drop no green, a straight up this sing ting. On a bun traffic, it's a slow rhythm. JCF a move rough, them bust the M16. Some man a drive up and down, them have the latest thing. Machine fits in a them jeans, a show off girls and bling. Smell a marijuana round the corner, them juggling. One madman get him foot straight out of the garbage bin. Aye. Blood run cold from the white sand. Concrete a bun, but some parts of your team. But Babylon boy, them kill a youth and one old woman a chance. And while a next set a man study ratatatantan. Them dig more grave than rooms up a Hilton. Small community get washed out by a bloodstorm. Every weekend same routine, one new function. Pressure them con more dead than 9/11 destruction. Aye. Rubber suit, under them blows one tiny something, hide up perfect boobs. them always a smile if you got baby eye. Them a go play you one chick if you a mama's boy. It's a tough man town, there's no crown and no throne. It's a go lick you down with a dancehall sound. If you a stranger and you drive, make sure you know the route. You don't wanna get salute by a gun dispute. Sibling down, down, sibling down, down. It's a rude boy town, it's Kingston town. Sibling down, down, sibling down, down. It's a rude boy town, it's Kingston town. Sibling down, down, sibling down, down. It's a rude boy town, it's Kingston town. Sibling down, down, sibling down, down. It's a rude boy town. Eccoci qui tornati quindi con questo pezzo reggae strepitoso cantato da un artista che forse non tutti lo sanno, ma è italianissimo. Questo non è motivo di vanto, però è una cosa curiosa perché il signor Alvaro... E vai con cervello in fuga, e vai! Sì, emigriamo, andiamo tutti via perché questo paese non ci merita e qui lo dico, qui lo nego, in verità non volevo fare questo tipo di polemica, però Alborosi è un chiaro esempio di artista italiano che ha fatto la sua fortuna proprio all'estero e... Nel paese dei balocchi. Nel paese dei balocchi per quanto riguarda lui, perché lui ha fatto successo esattamente nel posto dove chi lo ha ispirato, nel posto dove sono nati i suoi sogni, ovvero la Giamaica. Giamaicaca. Questa è tipica battutaccia romanaccia. Battutaccia romanaccia, ma che ci scrive anche per ricollegarci un attimo al gruppo successivo, che sono i Cipressi d'Ostantica. Che io l'avevo conosciuti ad Acilia a una festa dell'Unità e in verità poi mi hanno detto che no, guarda, siamo ostruenci. Sì, come no, sono i grassi e grossi personaggi che hanno creato una bella fetta di hip hop americano. Sì, perché pure loro poi sono emigrati a Los Angeles e Ostia Antica a Los Angeles e lì sono diventati Cypress Hill spacciandosi per latinoamericani. E qui infatti loro ripropongono un loro grandissimo successo facendo una cover di se stessi, ovvero Insane in the Brain rifatta in versione spagnola cantando Loco e nel coco, matto nella capoccia. Esatto, un po' come Se tu scemi al microfono. Por este acto. crecía, los puercos quieren soplar mi casa, pero estoy por abajo con mi grasa. Se ponen bravos porque no estoy ahí, estoy en mi Cadillac, hace tiempo que me fui. Soy el pirata, pilote del bote, cuando estoy ando como un papalote. Corre de la luz de la chota, cree lo que no ves, cree en la nota. Mira, pero no te vuelvas loco, loco. Negro como yo, ya perdió su coco. E voi parlate spagnolo? Oggi va tanto di moda, voli low cost, alberghi low cost, fast food low cost, Europa low cost. Arrivate a Barcellona in pieno agosto e vi ritrovate stipati in un cazzo di siluro volante pieno di italiani, con gli occhiali griffati, pantaloni griffati, telefonini griffati, pure i capelli griffati, vestiti in uniforme da turista. Ti fai una settimana a spasso sulla Rambla parlando in italiano, nella metro parlando in italiano, alla Sagrada Famiglia parlando in italiano, in pizzerie di pakistani che parlano italiano. Poi riprendi sto cazzo di supposta con le ali e all'atterraggio tutti battono le mani felici di potersi vantare con gli amici via Facebook di avere una nuova tacca sulla lista dei viaggi fatti. Bella dopo... Barcellona, bella! Esatto. Dopo Sharm e Praga, ora anche Barcellona. Vi sapranno dire tutto sulla Spagna, come se fossero nati lì. Peccato si tratti della Catalogna. E Madrid? Guarda, no, aspetta, io faccio anche una piccola premessa. Tu sai il mio, ma anche, diciamo così, condiviso da te, il nostro passato low cost, ma io non credo più al low cost, prima cosa. E questa è già una premessa fondamentale per dire che l'Europa low cost non mi soddisfa più, perché low cost non è alla fine solo per le cose materiali. Il low cost a un certo punto può diventare anche per le cose, diciamo così, un pochino più spirituale, per l'anima. L'anima low cost è un'anima da quattro soldi. È vero, sono d'accordo, te la compri con la carta di credito. Esatto, quindi siccome noi comunque sia siamo andati oltre, come questa radio d'altro canto, che non è low cost, questa radio è zero cost, quindi c'è tutto un concetto, tutta una parte della, diciamo così, chiamiamola fra virgolette vita occidentale, che comunque non fa parte del nostro pensiero. È incomprabile. Esatto, come la nostra indignità. Questa bella cazzata. L'abbiamo detto grossa. Però vabbè, cazzata. Diciamo che lottiamo quotidianamente per salvaguardare il nostro briciolo. Spirito, quel briciolo di buonsenso, di dignità e di allegria che ci rimane. E non mi sembra assolutamente poco, anzi mi sembra una lotta quotidiana e ai enorme, limiti della società, ai limiti della sofferenza, ai limiti della città, appunto. E questo è il titolo del pezzo che seguirà. Questo è Nutbush City Limits. Loro sono questo è Ike con Ike. Sì, Ike, ma lo sai perché si chiama così Ike? In verità era un, gliel'ho dato io, era Pasco. No, è che allora era un giorno che io conoscevo già Tina, gliel'ho presentato io tra le altre cose, e il giorno che ci siamo conosciuti lui aveva il singhiozzo e faceva e non gli finivo più. Io ho detto: senti, ma perché non ti fai chiamare Ike? Questa è grossa, veramente grossa. Loro sono Ike e Tina Turner e questo era Grex. Grazie a tutti per la firmala, questa firmala. Buon ascolto. Allora, Radio Pazza, che alla fine non è altro che una sorta di social network, un po' come gli altri famosi Facebook e Twitteresse trattino. No, sì, perché non voglio fare pubblicità occulta. Certo, come no, molto occulta. No, è vero, Radio Pazza è un social network, nel senso che se voi volete potete creare il vostro podcast e partecipare con noi alla realizzazione di questo progetto no cost. Anche semplicemente mandandoci storie o informazioni interessanti che possiamo poi eventualmente anche noi leggere. Certo, condividere come si fa normalmente con i social networks, ovvero clicchi un tasto e te lo ritrovi sul tuo Facebook. Esatto, lo facciamo con la musica, lo facciamo con informazioni interessanti. Una bella notizia dall'estero. Sì, bella, diciamo che è una notizia. Aspetta, qua. Ti metto una musichetta, una colonna sonora. Vai, che mi metti? Oh, tu tranquilla, ascolta. No. Mi piace. Allora... Qua si tratta di padre trovo topo morto nel pane, mentre falso per i figli. Allora, il ritrovamento è stato documentato da una foto diffusa della AP e da altre agenzie. Inutile dire che non è immagine adatta a chi ha uno stomaco sensibile. Si tratta di un topolino morto, finito non si sa come, in quella fetta di pane. La stampa inglese, la Daily Mail, poi ha pubblicato una foto in bella vista all'interno dei suoi articoli. L'immagine incriminata è quella qui sotto. Praticamente c'è una fetta di pane e in mezzo c'è un topolino crocifisso. No, poi la cosa buffa è che dice, secondo le analisi, al cadavere del topolino mancava la coda. E meno male che mancava la coda e non qualcos'altro. Esatto, una cosa che ha fatto inorridire le sventurate persone a cui è successa questa cosa. E se la coda si fosse staccata dal corpo dell'animale per finire in un'altra fetta di pane, magari una delle fette che io e la mia famiglia abbiamo mangiato ieri. Così dice Steven Force, 41 anni, che era già a buon punto con la preparazione del panino quando ha notato un oggetto scuro spuntare dallo spigolo di una delle fette. Guardando più da vicino, ha raccontato, mi sono accorto che quella cosa era pelosa. Io secondo me, cioè, voglio dire, credo che il padre, sto signore, era rimasto scandalizzato più che altro confrontando le dimensioni. Vabbè, ammazza. È qui che si è incavolato, ha fatto la denuncia, si è beccato un sacco di soldi. Oh, qua si tratta di 11.000 sterline. 5.000. Sì, va, no, anche 11, cioè nel senso 6-400 sono per il danno materiale e 11 per l'umiliazione del pene. E c'ha ragione, povero pene, che diavolo, non basta il pane, pure il pene, insomma. Vabbè. Senti, ma a proposito di... No, perché parliamo di pene? Perché parliamo di confrontare le misure? Perché il prossimo pezzo... C'entra niente. C'entra niente, il prossimo pezzo sono i Blue Suede. Aspetta. Facciamo una cosa, decidiamo una cosa. Questo intervento lo lasciamo? Ma lo lasciamo, sì, per forza. Sicuro che non lo rifacciamo? Ma certo che lo lasciamo. Sei sicuro? Ma sì. Va bene, allora... Loro sono gli Udo con... Ma che stai a dire? Il prossimo è questo. Ah, è vero, sono i Blue Suede. Con Hooked on a Feeling. Non ci ho capito niente, come al solito. Fa niente, tranquillo. Uka chaka uka uka uka chaka uka uka uka chaka uka uka uka chaka uka uka uka. I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's all right. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. Lips as sweet as candy, its taste is on my mind. Girl, you got me thirsty for another turn me on. All the good love when we're all alone. Keep it up, girl. Yeah, you turn me on. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. I'm hooked on a feeling. You're in love with me. I said I'm hooked on a feeling, and I'm high on believing that you're in love with me. Hooked on a feeling. Agganciato a un sentimento, così cantano i Blue Suede nella colonna sonora del film Le Iene di Tarantino. Aspetta, non solo Le Iene, questo mi ricorda anche un famoso telefilm. Parla nel microfono. Sì, no, è vero, questa era anche la colonna sonora dei Sogni deliranti di Ellie McBeal, in cui vedeva un bambino ballare. Vabbè, andiamo avanti. Stavo dicendo, colonna sonora delle Iene Tarantino, e poi tra parentesi sti cazzi. Ok. Agganciato ai sentimenti lo è anche Daniele Silvestri, che ci racconta una storia qualunque, o meglio un momento straordinario nella vita di una persona qualunque. Un uomo che scappa da se stesso e dalla sua vita qui per sfuggire altrove, per arrivare magari in Olanda, dove tutto è più bello, almeno nella fantasia del personaggio. Insomma, una specie di fumatia Pascal, ecco. Prima di farvi ascoltare le sue banalità, volevo proprio discuterne con te, caro Grex, tu che sei emigrante. È una fuga, una risposta, un palliativo, una vendetta, un viaggio? Cosa ci spinge verso l'altrove? Guarda, io direi una contraddizione di termini, fondamentalmente. La mia fuga personale mi ha insegnato una cosa, che innanzitutto nessuno di noi è una persona qualunque, tutti noi siamo delle persone speciali, e la risposta mia è tanto vaga quanto quella che mi ha fatto prima su Madrid, proprio perché la ricchezza e il tesoro di tutti quanti noi sta all'interno di ogni persona, non c'è bisogno di andarla a cercare altrove. E qui clicco mi piace e condivido. Comunque sono contento che siamo tornati su un tema un pochino più serio, anziché leggere delle cazzate di prima. Sì, no, ma quello è effettivamente la prima pagina di Yahoo, che consiglio a tutti se vogliono avere delle notizie stronze. Comunque dicevo che avevi fatto un paragone con Fuma Tia Pascal. Chi è Tia che fuma? Non ti preoccupare, cosa di scuola. Io a scuola non ci sono andato, io lavoravo. Braccia rubate all'agricoltura o alla radio, no, banalità, sono banalità. Stavo dicendo che stiamo per ascoltare quindi un pezzo a noi molto caro, perché rappresenta molto, diciamo, un periodo della vita. Ma non hai risposto alla mia domanda. Ma io non voglio rispondere alla tua domanda, io te l'ho detto che l'unicità è la cosa importante. Io non sono più Mattia, io sono Grex. E questa è bellissima, questa frase mettetela nel vostro status di Facebook: io non sono Mattia, io sono Grex. E poi tutti cliccheranno mi piace e condivideranno. Va bene, questo è il prossimo pezzo, quindi Daniele Silvestri con Banalità. E cicca, ciao. Amico mio, permetti una domanda. Sai già che io domani parto per l'Olanda. Ti sarei grato se potessi fare tu per me una piccola faccenda, che più semplice non c'è. Si tratterebbe di recarsi in via Bonelli 103, citofonare interno 4, appena dicono chi è, gridare Signore Dio, aiuta questa gente, perché oggi l'uomo che viveva qui e conosco anch'io è scomparso prematuramente. Aggiungi tu quel che ti va, banalità, banalità. E appena puoi vai via di là, sparendo nell'oscurità. Amico mio, ti vedo un po' perplesso, ma forse anch'io al posto tuo farei lo stesso. Ti prego, aiutami, aiutami. Tu inventa quello che ti va, vedrai che allora a loro basterà. Tanto alla fine resta la banalità, banalità. In Olanda il sole è giallo, un po' più freddo che da noi. In Olanda quanto ballo, non lo diresti mai. In Olanda non capisco, non mi sento soddisfatto. Sarà che è tutto così dritto, così spietatamente piatto. Il terminale dell'utente non l'hai chiamato, potrebbe essere spento. Amico mio fratello, quant'è che non ti vedo? Sembra una vita adesso qui, per caso è così bello, io quasi ancora non ci credo. Già che ci sei ti sarei grato, se potessi fare tu per me una piccola faccenda, che se te si tratterebbe di tornare in via Panelli 103, citofonare interno 4, appena dicono chi è, gridare amore mio. Avevano sbagliato, un incidente, un'amnesia, che so, un'epidemia, ma quel che conta son tornato. Inventa poi quel che ti va, banalità, banalità. Se per caso ti aprirà, fammi un cenno e io ti aspetto qua. Era il 2004, piazza Trippi a Barcellona, ore 9 del mattino. Stavo lì all'Orwell Bar bevendo il mio caffè americano ai tempi in cui turcamente fumavo le John Player Special nere. Banalità alla radio e la barista, una canadese, mi chiede se sono italiano. Vergognandomi un po' annuisco e tutta felice mi chiede di spiegarle cosa dice la canzone. Senza risponderle mi alzo, esco dal bar senza pagare, lasciando le sigarette sul bancone. Vado al pacchi computer dietro il vicolo pisciato in mosche, vicino alla Madonna delle Magnolie, e torno con la stampa del testo. Ora questa barista vive felice in Canada, a casa sua. Chissà se ama ancora le banalità. Yeah. Passato qualche anno, caro Bacca, anch'io sono ripassato proprio nel medesimo bar in piazza Orwell a Barcellona. Sono tornato in quel bar, mi sono seduto, fumavo altre sigarette, forse non erano neanche sigarette. Mi sono seduto al bancone e a sinistra, attaccato alla parete, c'era un cartello. E sorpreso riconobbi la tua faccia. Sotto la tua immagine c'era scritto, infatti, vietato, non si fa credito agli italiani. Thank you. tante riflessioni sul nostro passato, le mie e le tue, caro Grex, e le canzoni che abbiamo ascoltato andrebbero anche citate, insomma, per dovere di correttezza. Quelli che abbiamo ascoltato prima erano i Magma con Udu Udu, e immagino abbiate capito completamente il testo, come d'altronde faccio io tutte le mattine appena sveglio, un po' rincoglionito. Mentre invece di seguito c'erano i Catalyst con Silly Games, e anche lì, insomma, sul linguaggio c'era parecchio da fare. E io ho una memoria, Bacca, la memoria, siamo anziani ormai, abbiamo i capelli bianchi. Cesare, te è anziano, non ho capito. Comunque, senti, io ancora non mi sono comprato la decapottabile. Ma neanche io, se è per questo, magari. Però ti sei fatta. Che me sono fatto? I danni me sono fatto io. Lasciamo perdere. Allora, dopo aver fatto il giro del mondo, andrebbe anche elogiato a questo punto con un pezzo che si intitola Ma che bel mondo che è. Sì, ma questo guarda, io non so se effettivamente questo pezzo può realmente elogiare questo mondo. Credo che al contrario ne faccia una descrizione abbastanza severa. D'altro canto, questo è un gruppo punk, anche se italiano, ma il punk è così solitamente punk organico, direi. È un punk organico che serve proprio per denunciare in maniera forse un po' banale ma strettamente incazzata quello che non ci piace di questo mondo, parafrasando però la bellissima canzone di Louis Armstrong. Sì, What's a Wonderful World, What's an American Boy. Exactly. Ok, a voi Pancreas con Ma che bel mondo che è. Ascoltato questo pezzo punk, un pezzo che dovrebbe un po' risvegliare le coscienze e dovrebbe un attimo scrollare, dare una come dire, un'agitata, una sgrullata che può sembrare brutto ma parlo di una cosa ben precisa, la sgrullata delle nostre coscienze, la nostra iniziativa, le nostre fantasie, perché sì, fantasie, perché poi si ricollega anche un po' all'immaginario di tutti quanti, cioè la bellissima canzone di Lou